Quello che chiediamo è che venga creato un fondo di 20 miliardi che siano sempre disponibili per essere usati quando avvengono eventi climatici estremi come stanno avvenendo in questi giorni a Parma, a Milano, dove i fiumi sono esondati, e quindi che questi 20 miliardi siano lì pronti per aiutare le persone a ricostruire le proprie case, le proprie attività economiche distrutte, e vogliamo anche che le persone colpite possano decidere come usare quei soldi e abbiano il potere per decidere come ricostruire il proprio territorio. Abbiamo visto quest'estate e l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questo momento, gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti nel nostro paese e quindi i danni sono sempre maggiori e in crescita. In Emilia mesi fa ci sono stati 5 miliardi di danni che non sono stati rimborsati e quindi ci sono cittadini che non hanno più una casa, non hanno più un'attività. Vogliamo semplicemente evitare che succeda di nuovo e che i cittadini italiani possano vivere in sicurezza sapendo che se succede qualcosa riceveranno un aiuto. Nella bozza di legge di bilancio il governo prevede un'assicurazione obbligatoria per le imprese proprio contro i danni della crisi climatica. Credete che sia un modo per scaricare la responsabilità sulle imprese, appunto, e sui cittadini invece che assumersela il governo? Dunque, un'assicurazione, il problema dell'assicurazione è che la paga il cittadino, la paga l'azienda nuovamente, e il sostegno che prevede il governo è un sostegno che va alle compagnie assicurative, quindi in realtà non è un sostegno ai cittadini ma è un sostegno alle assicurazioni. Le imprese saranno obbligate a pagare di più per svolgere la propria attività perché dovranno anche pagare l'assicurazione, e i soldi che ci mette lo Stato in caso di evento estremo andranno alle assicurazioni, non ai cittadini. Quello che noi chiediamo invece è che vadano direttamente ai cittadini e che i cittadini possano decidere come usare questi soldi. Se lo Stato accantona un fondo, poi immagino sia più interessato anche a fare opere di mitigazione e di prevenzione, appunto, rispetto ai cambiamenti climatici. Certo, anche quello è necessario e speriamo che possa essere un incentivo per muovere il governo anche in quella direzione. E una cosa in più che è importante rispetto alla nostra richiesta del fondo è da dove vogliamo che vengano quei soldi. Non vogliamo che vengano da tagli alla spesa sociale e agli aiuti a chi già è povero, come è successo per i pochi aiuti all'Emilia, per esempio, che sono stati presi dal reddito di cittadinanza. Noi vogliamo che i 20 miliardi per il fondo riparazione vengano presi dalle spese per le armi, vengano presi dagli stipendi dei politici, vengano presi dai mega stipendi e mega bonus dei dirigenti delle imprese pubbliche, vengano presi dagli extra profitti delle aziende del fossile, per esempio Eni. Quindi vogliamo che quei soldi vengano presi da chi è responsabile della situazione in cui ci troviamo. C'è un modo per sostenere questa vostra campagna? Sì, sicuramente. È possibile sostenerci economicamente, quindi fare una donazione andando sul nostro sito ultima-generazione.com. Con una donazione potete sostenere le nostre attività. Potete venire alle nostre presentazioni per conoscerci meglio. C'è un calendario sul sito, ci trovate su Facebook, su Instagram, sui social. Venite a conoscerci e soprattutto pensate se non è il momento anche per voi di scendere in strada, entrare in disobbedienza civile e pretendere che il governo faccia qualcosa per la sicurezza di tutti.